e all'inizio la Eli gestisce un lanciano di Yamia 24 mattino. Signori, sono le 7:20 minuti, eccoci qua, siamo pronti a leggere i giornali. Questo è il momento della rassegna stampa di 24 mattino. Ci siamo, caro Peter Bescapè che sei in regia, caro Lorenzo Nespoli che sei lì in redazione. Prima non vi avevo salutati, allora state ancora dormendo. Svegliate. Dai, andiamo! Che spettacolo. È mercoledì 5 ottobre, intanto i titoli, le aperture, il quotidiano, il Sole 24 Ore apre così sulla BCE, ipotesi riduzione del quantitative easing, balzano i rendimenti dei bond, questo è il titolo di prima pagina, anche per la stampa, la BCE studia lo stop al bazooka. Mentre i conti italiani sempre in discussione, per il Corriere della Sera Padoan difende la crescita all'1%, è realizzabile. Così Repubblica, battaglia sul DEF, stime da rivedere, Renzi dice i soldi ci sono. Per il Messaggero la sfida del governo, PIL all'1%. A proposito conti, anche il manifesto, il primo no. E c'è la foto di Renzi e Padoan, un no dopo l'altro dagli istituti finanziari interni e internazionali sulla manovra economica italiana. La Verità invece apre, dopo aver pubblicato in questi giorni gli stipendi dei dirigenti dell'INPS, ora si concentra su Cuccagna Equitalia, i ricchi stipendi dei signori che riscuotono le tasse. Ecco la retribuzione di tutti i dirigenti, alcuni superano i 200.000 euro l'anno. Per il Fatto Quotidiano invece, patto del biscione, Renzi con Falonieri e Mediaset vota sì. Aperture diverse per Libero, diventeremo tutti razzisti a forza di non governare l'immigrazione, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Giornale, il Papa fa subito santo il prete ucciso dall'ISIS in Francia. A proposito di Papa, tra la gente per dare forza e l'apertura di Avvenire col Papa che ha visitato i paesi colpiti dal terremoto. Ma voglio iniziare con una buona notizia. Vedete che ci sono. Ci sono a cercarle col lumicino. Da Toni Negri a Cesare Previti, via a 6 condannati il vitalizio della Camera. Segnatevi la data di ieri. Ce l'abbiamo fatta dopo tanto tempo. Ce l'abbiamo fatta, nel senso, noi italiani. Sono arrivati a 80 anni, avevano una condanna definitiva in passato con interdizione perpetua dai pubblici uffici, in alcuni casi come Cesare Previti, e quindi alla Camera hanno fatto decadere il vitalizio per 6 ex deputati, i più celebri appunto Cesare Previti e Toni Negri. Toni Negri è rimasto storico perché è stato in Parlamento, credo, 2 mesi, poco più, forse pochi giorni. Da ieri però quello stipendio per Cesare Previti, Toni Negri, ma anche Luigi Farace, Giuseppe Astone, Giuseppe Del Barone e Luigi Sidoti sono stati cancellati. Ovviamente alcuni di loro protestano, il Corriere della Sera raggiunge Luigi Farace. Ma perché l'hanno fatto? Nessuno mi ha detto niente. Ma l'ufficio di presidenza ha deciso di cancellare i vitalizi degli ex deputati ultra ottantenni che hanno avuto condanne definitive superiori a 2 anni. Ah sì? E come l'hanno stabilito? Beh, grazie ai documenti della Cassazione. Allora nessuno mi deve togliere il vitalizio, il mio processo non è ancora arrivato in Cassazione, risponde l'ex onorevole Luigi Farace. Ma di quale processo sta parlando? Noi parliamo di quello del reato di bancarotta fraudolenta. Non ho commesso alcun reato. E l'intervista si chiude breve, si chiude così. Un po' più loquace su Repubblica, intervistato da Concetto Vecchio, Luigi Sidoti, anche qui. Pronto, onorevole, sa che le han tolto il vitalizio? Non avevano nulla da fare. Belle notizie, proprio mi dà. Ma quanto prendeva? 2.000 euro? Una miseria. Beh, rispetto ad altre pensioni, certo, comunque non voglio fare lo spocchioso. Ora rimane una pensione dell'INPS da 600 euro. Come farò? Provo rabbia. Ma non è giusto togliere il vitalizio a chi ha una condanna sopra i 2 anni? Il PM aveva chiesto 2 anni, così mi sarei salvato, ma i giudici mi hanno condannato a 2 anni e 6 mesi. Quel che è fatto, sentirò l'avvocato. Guardi che anche a Berlusconi han tolto il vitalizio, ma quello gli fa un baffo, per me è la vita. Per quanti anni l'ha preso? 20 anni. E ora? E ora ho la sospensione della pena, la non menzione nel casellario, ma mi han tolto il vitalizio. Che presa in giro. Eh sì, si difendono tutti così. Questo è Luigi Sidoti, ex deputato. Non ci sono dichiarazioni di Previti, non ci sono dichiarazioni di Toni Negri oggi sui giornali, ma la notizia c'è ovunque. Alla fine piange anche Toni Negri. Ha compiuto 80 anni, via il vitalizio, pagina 9 del Giorno. Comunque tutti i giornali hanno questa notizia ben in primo piano. Dicevamo a proposito di paghe o superpaghe, non lo so, potrete giudicare voi, visto che La Verità li pubblica dal primo all'ultimo, a cominciare dalla A di Gianluca Ambrosio per arrivare alla Z di Fabio Zolea o Zolea. A pagina 7 ci sono tutti gli stipendi dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate Equitalia. 95 dirigenti di Equitalia che incassano una media di 130.000 euro, ma perlomeno, scrive La Verità, il loro reddito è pubblico. I signori che riscuotono le tasse guadagnano anche 240.000 euro. Ci sono forse alcuni casi come Carlo Lassandro, 231.049,94 euro. Vi vado così a spulciare pubblicati. Oppure ce n'è Luciano Mattonelli, 218.991 euro. Comunque, sono tutti pubblicati gli stipendi dei dirigenti di Equitalia. A proposito di Equitalia, sempre sulla Verità, Alessia Pedrielli racconta questa notizia mentre sto cercando di abbattere il microfono, ma invano. A pagina 6 c'è questa notizia: non è reato dire che Equitalia istiga al suicidio. È una frase che disse Mauro Merlino, disoccupato di Sassuolo. In un video postato su YouTube si era espresso così nei confronti dell'ente di riscossione più odiato dagli italiani. Equitalia istiga al suicidio. Allora il direttore era befera, che non l'ha prese certo bene. Lo querelò per avere offeso l'onore e la reputazione dell'ente. E indagini, 2 anni di processo e poi l'assoluzione con formula piena lo scorso giugno e ieri, le motivazioni del giudice. Scrive il giudice: l'addebito ad Equitalia di istigare al suicidio è stato espresso in concomitanza con numerosi episodi di suicidio, per la precisione 181 nel 2012, tutti verificatisi tra soggetti debitori di tributi. E se non può certo dirsi che di tali suicidi sia responsabile Equitalia, l'espressione non è punibile perché esternata nell'ambito del diritto di critica. Così negli atti del giudice si legge la motivazione, dunque assoluzione per aver detto a Equitalia istiga al suicidio. Voglio segnalarvi questa iniziativa del Comune di Torino. Mi sembra un'iniziativa meritoria, lo scrive La Stampa. Il sindaco del Movimento 5 Stelle, Appendino, ha deciso che porterà avanti questo progetto chiamato così di accoglienza diffusa. Il Comune di Torino pagherà 300 euro al mese i torinesi che decideranno di accogliere in casa loro un senza tetto quest'inverno. È un esperimento, racconta Andrea Rossi sulla Stampa pagina 6, calato in una ragnatela di iniziative che vanno da dormitori allestiti nei parchi, le ronde notturne con cui convincere chi si accampa all'aperto ad accettare un posto al caldo, ma nel piano c'è anche, per l'assistenza ai senza fissa dimora, l'accoglienza diffusa, 300 euro al mese a ogni famiglia che quest'inverno deciderà di ospitare un senza tetto in casa propria. È un progetto presentato dalla funzionaria della Compagnia di San Paolo, che Appendino ha voluto assessore al welfare, Sonia Schellino, approvato dalla Giunta ieri, e contiene una serie di misure per l'inverno in arrivo e per tamponare la prevedibile emergenza. 1.700 sono i senza fissa dimora che tra qualche tempo dovranno combattere con temperature vicine al di sotto dello zero. E La Stampa si chiede: chissà se funzionerà. Con profughi e richiedenti asilo qualche risultato è arrivato, con la campagna sull'accoglienza diffusa basata sulla sensibilizzazione delle famiglie. Alcuni hanno dato letto a 100, in tutto sono dati un letto a 150.000 migranti, ovviamente a 150 migranti, ovviamente non 150.000, 150 migranti. Chissà se funzionerà anche con i senza tetto, però il progetto mi sembra interessante, tra l'altro presentato proprio nel giorno di San Francesco ieri. Ma sono su Repubblica, perché questo invece è l'articolo che mi fa pensare della giornata. Riguarda la Grecia. Ed Ettore Livini racconta che andrà a processo colui che svelò il rischio del crack greco. Svelò il crack greco, rischia l'ergastolo per tradimento. La Cassazione greca vuole processare il professor Andreas Georgiou. E chi è Andreas Georgiou, che ora peraltro vive in Maryland e fu chiamato alla vigilia della crisi greca da Washington per arrivare ad Atene e certificare i bilanci nazionali? Ebbene, lui arrivò, ma intuendo il ginepraio in cui si era infilato, debiti non dichiarati, voragini dei fondi pensione spariti nel nulla, perdite di aziende statali non calcolate correttamente, alla fine disse: guardate che il rapporto deficit-PIL reale del paese, e siamo nel 2009, è del 15,4%, non del 13,6% come dite, come usate come base negoziale con la Troica. Insomma, ha fatto un'operazione di trasparenza questo professor Andreas Georgiou. Ha detto: guardate che i conti stanno così. Ha fatto bene. Risultato: traditore. Considerato un traditore, va processato secondo la Cassazione. Svelò il crack greco, rischia l'ergastolo per tradimento. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Mila, il conduttore che sembra a che fare con la carta, e sai che ci deve fare con la carta? Ci si deve pulire il... No, no, no, no, caro ascoltatore, per carità, le 7:36 minuti, eccoci qui. Allora, si litiga sui conti pubblici, sul DEF. Ieri il ministro all'economia, il ministro del tesoro Padoan, è andato alla Camera, proprio dove l'autority dei conti, l'ufficio parlamentare del bilancio, aveva messo in dubbio, dicendo che era ambizioso questo PIL all'1%, quello per la verità l'ha detto Banca Italia, ma il PIL all'1% obiettivo ambizioso, questa è l'accusa. E Padoan ha risposto: ambizioso sì, ma obiettivo realizzabile. Come racconta Gianni Trovati a pagina 3 del Sole 24 Ore, al centro delle discussioni riprese ieri dal titolare dell'economia nel corso dell'audizione delle commissioni bilancio, c'è il forte effetto di spinta che le misure previste in manovra, dal blocco degli aumenti IVA agli incentivi fiscali per gli investimenti, secondo il governo dovrebbero produrre l'anno prossimo, portando la crescita dallo 0,6 tendenziale all'1% programmatico. Questo è ciò che viene messo in dubbio e che Padoan dice invece è un obiettivo l'anno prossimo realizzabile. È molto critico Massimo Giannini, che è tornato a scrivere su Repubblica dopo l'esperienza a Ballarò. Scrive su Repubblica: l'atto di fede del Premier. Ha ragione il ministro del Tesoro Padoan, il programma economico del governo Renzi non è una scommessa, purtroppo allo stato attuale è qualcosa di ancora più incerto e ipotetico, è un vero e proprio atto di fede. Ma purtroppo, per fortuna, viviamo in terra di infedeli e dunque bisogna rassegnarsi all'evidenza. I numeri che l'esecutivo ha scritto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza per i prossimi 3 anni sono scritti sull'acqua. È scritta sull'acqua la previsione di una crescita all'1% per il prossimo anno, come confermano da settimane tutti i maggiori istituti di ricerca italiani e da ieri anche il Fondo Monetario Internazionale. E non è questione di sfiducia nelle misure della legge di bilancio, che secondo Padoan sarà talmente potente da stimolare aumento del PIL di quella portata. È che quella previsione tanto rosea non regge alle prove empiriche del passato. Lo ha denunciato l'ufficio parlamentare di bilancio. Perché mai una riduzione del deficit dello 0,5 o il disinnesco delle clausole di salvaguardia dovrebbero far lievitare il prodotto interno lordo? È scritta sull'acqua la previsione di una stabilizzazione del debito pubblico, che invece lo stesso Fondo Monetario prevede in crescita al 133,4% nel prossimo anno. E così via. Massimo Giannini critica, pagina 1 e poi 3 di Repubblica, crescita, debito più investimenti, ecco l'atto di fede del capo del governo. Renzi ieri ha criticato dicendo: sono battaglie su decimali, questioni, come dire, che si ripropongono ogni anno come le occupazioni studentesche delle scuole. Staremo a vedere, ma c'è un nuovo fronte, secondo il Giorno, riguarda le pensioni. Raffaele Marmo racconta a pagina 3 del Giorno. Le bocciature pubbliche sul DEF le conosciamo, ma ce n'è una riservata e sotterranea, come quella manifestata dai tecnici della Ragioneria Generale dello Stato sull'APE, cioè l'anticipo pensionistico. Una serie di riserve e perplessità su ciò che il governo considera uno degli assi nella manica per garantire la flessibilità pensionistica. Nel mirino c'è l'impatto a medio termine sulla spesa previdenziale di una misura che comunque determina un allentamento delle maglie strette della riforma Fornero. Quindi anche le pensioni nel mirino. Va bene, vedremo i conti pubblici, continua la battaglia anche a Roma, dove per l'ennesima volta si è presentato Beppe Grillo con Davide Casaleggio. Prima ha incontrato i gruppi parlamentari della Camera, hanno festeggiato, ieri era il compleanno della nascita del Movimento 5 Stelle. Il titolo del Corriere della Sera: ci massacreranno, stiamo uniti e compatti, da qui al referendum useranno ogni trucco. Questo ha detto Beppe Grillo ai suoi parlamentari. Roma ovviamente è sempre nel mirino. Repubblica fa notare che per lo scontro su Muraro, sull'assessore Muraro, che Raggi vuole difendere fino all'ultimo, ha assaltato il sindaco di Roma l'incontro con Beppe Grillo. Forse l'intervista più interessante è quella che Federico Capurso fa con il neoassessore al bilancio Andrea Mazzillo. Eccola qua sulla Stampa, pagina 7. Non c'era nessuno per fare l'assessore al bilancio a Roma. Parla Mazzillo. Abbiamo deciso insieme alla sindaca che sarebbe stato meglio cercare qualcuno all'interno del Campidoglio. Dopo un mese di ricerca abbiamo preso la decisione perché ci siamo resi conto che scegliere una persona esterna era diventata una questione troppo delicata. Mi dica lei se trova qualcuno che vorrebbe fare l'assessore al bilancio a Roma. Beh, qualcuno c'era, ma l'attenzione mediatica era troppa, una cosa impressionante. Vabbè, veniamo a lei. Si è davvero inventato i titoli di professore universitario e commercialista? Mettiamo le cose in chiaro, risponde Mazzillo. Sono commercialista e sono docente universitario. Non sono iscritto all'ordine dei commercialisti perché sono dipendente di Equitalia e non ho mai detto di essere professore, ma docente. Come lo chiama lei, qualcuno che tiene lezioni all'università? Anche il suo passato di attivista del PD ha provocato qualche problema. Si dice che il capogruppo grillino Paolo Ferrara sia andato su tutte le furie. È tutto a posto, risponde Mazzillo. Ho sentito Paolo e mi ha dato la sua disponibilità a lavorare insieme. Va bene, parla Mazzillo, dunque si difende delle accuse sul curriculum e però dice: io assessore perché assessori non ce n'erano al bilancio. Ma come? Ma noi ne avevamo pronto uno, era qui, era disponibile, sa tutto, legge avidamente le pagine di finanza, legge religiosamente le pagine di norme e tributi, è un computer, è Mauro Meazza, ma niente. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Vedo che la lettera monitoria del mio avvocato ha sortito degli effetti da giudicare. Ma c'era un bel posticino lì a Roma, potevi andare a Roma. Ma sai com'è, io sono così milanese, come si fa? Comunque mi compiaccio perché hai citato quasi tutti gli avverbi di come si legge il Sole 24 Ore, e poiché domani inaugureremo nuova collana come si legge il Sole 24 Ore, ovvero comprendere le questioni economiche attraverso le letture del Sole 24 Ore, giustamente tu hai citato, quindi norme, ripetiamo a beneficio di tutti, norme e tributi lo devi leggere di bene. Norme e tributi religiosamente. Bravissimo. E per quanto riguarda le pagine invece di finanza? Avidamente. E le pagine di imprese e territori, l'economia reale, come le devi leggere? Pensavo compulsivamente. No, scrupolosamente. Ma tutto il Sole 24 Ore va letto quotidianamente, perché ad esempio anche oggi appassionavi prima alle questioni ambiziose ma realizzabili della manovra. Ecco, proprio in pagina 3, guarda, si prospettano dunque interventi per i giochi, bisogna trovare un po' di soldi, insomma. Una voluntary bis closure, come già abbiamo avuto modo di ricordare, e anche un interventuccio per le comunicazioni IVA. Ma se leggi rigo a rigo Marco, sì, Mobili e Marco Rogali, rigo a rigo, sì, questa è nuova, non è un avverbio, esatto. Ecco, vedrai che si prospetta anche una clausolina di salvaguardia, perché alcune di queste entrate, ohimè, non sono certe, quindi bisogna mettere sul piatto una clausolina di salvaguardia. Si pensa alle accise sulla benzina, insomma, come al solito, no? Se non funziona, eccetera eccetera. Ti segnalo, tra l'altro, è partita l'attuazione definitiva delle unioni civili. Dirai, ma come, c'è già, ci sono già? Sì, ma bisognava adeguare, tra le altre cose, il codice penale e altri strumenti normativi, e allora, come ti riferiamo oggi sul Sole 24 Ore, c'è stata la presentazione dei decreti legislativi necessari, tempo 60 giorni. Le norme sono in vigore grazie a un periodo transitorio, quelle che stanno arrivando sono quelle definitive, è tutto spiegato sul Sole 24 Ore. C'è una nuova legge per l'editoria, caro Alessandro, che anche mette il famoso tetto agli stipendi Rai, hai presente? Come no, i 240.000 euro. Si occupa anche di prepensionamenti per i giornalisti, non so se riguarderà anche te, adesso leggerò con attenzione il testo. Comunque è riferito tutto da Marco Mele sulle pagine oggi del Sole 24 Ore. Oh, poi ti segnalo così in ordine sparso, importante qui Radio Fisco, il trattamento dei beni a uso promiscuo, che non è una cosa piccante, è proprio quando c'è un uso appunto personale ma anche lavorativo. Il trattamento ai fini IVA ed imposte sui redditi, tutto nelle pagine di norme e tributi da leggere, come sempre, religiosamente. Chiudo, ma avrei molte altre cose da segnalarti, con il BTP a 50 anni. Ah, ne parlavamo ieri, sì, sì. Ecco, 2067 te lo sei segnato? Ecco, e devi sapere che però ci sono state richieste per 18 miliardi e mezzo. Ne erano collocati 5 miliardi, quindi c'è stata una richiesta quasi quadrupla dello strumento. Leggi tutto da Maximiliano Cellino ed Isabella Bufacchi in pagina 2 oggi del Sole 24 Ore. E come sempre, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, la step calda adopt dell'informazione. Dai, oh, ce l'abbiamo fatta, caro ascoltatore. Oh, io vi ricordo, visto che chiamiamo ogni tanto i nostri ascoltatori che ci seguono dall'estero, se ci ascoltate dall'estero in podcast, in diretta, con le app, dal sito del radio, scriveteci a 24mattino@radio24.it, perché noi chiameremo gli ascoltatori all'estero, vi chiameremo in onda. Allora, intanto, il referendum. Il Corriere della Sera fa sapere con Dino Martirano che le Camere saranno chiuse per referendum, questo è il titolo, nel senso che ci sono alcune leggi il cui iter verrà bloccato di fatto, perché c'è la campagna elettorale, tutto fermo fino al 4 dicembre, dalla legge sulla concorrenza, la riforma penale, che riguarda sostanzialmente tutti i cittadini soggetti al codice penale, molto interessati anche avvocati, magistrati, imprese, investitori stranieri, tutto bloccato. La legge sulla concorrenza approvata in commissione il 2 agosto, anche qui sono interessati gli ordini professionali, farmacisti, medici, notai, studi legali, tutto bloccato. Il conflitto di interessi che riguarda i burocrati grandi e piccoli e gli stessi parlamentari, ma anche la legge sulla liberalizzazione della cannabis approvata in aula a luglio ma ora pronta per essere spedita in commissione, la legge sulle adozioni, che in realtà si è molto appesantita dal momento in cui è stata stralciata dalle unioni civili, appunto, la stepchild adoption. Tutto ciò è inchiodato, racconta il Corriere in questo articolo di Martirano a pagina 10, camere chiuse per referendum. È tutta la precedenza al referendum. A proposito di referendum, ci si gioca talmente tanto e si sa che Renzi, racconta l'Unità con Ilario Lombardo, non baderà a spese. Il Partito Democratico è pronto a mettere 2.800.000 euro per la campagna del sì. E secondo questi rumors, pagina 9 della Stampa, di questi 2.800.000, 400.000 euro andranno al guru Messina, Jim Messina, che è stato arruolato, è colui che in pratica ha fatto vincere Obama, è considerato l'esperto in grado di far passare gli indecisi verso il sì. Dal PD 2,8 milioni, 400 mila euro al guru Messina. Tutto prenderà in questa parcella. Praticamente sappiate che il PD ha incassato solo con la raccolta delle 500 mila firme 500 mila euro. Di fatto se ne vanno tutti quasi per Messina. E visto che è circolata questa cifra, non si capisce dove andranno. Beh, si pagherà forse coi soldi dei gruppi di Camera e Senato, insieme a ulteriori 700.000 euro destinati alla campagna pubblicitaria da parte del PD. Chissà come sarà contento Bersani di questa decisione di pagare 2,8 milioni di euro, per dire, Bersani, ma anche D'Alema, che però non è parlamentare. In ogni caso, questo succede nel referendum. Vi segnalo articoli interessanti di cronaca. Milena Gabanelli e Giulio Valesini raccontano, un'anticipazione della puntata di Report a pagina 20 del Corriere della Sera, se il dirigente prescritto in un caso di corruzione rappresenta l'Italia nell'Unione Europea. È la storia di Pasqualino Rossi, incaricato inizio anno a occuparsi della nostra sicurezza alimentare, dei farmaci e della salute veterinaria a Bruxelles. È solo che, scavando nel passato, Milena Gabanelli, di questo Pasqualino Rossi, hanno scoperto che nel 2008 fu arrestato da Guariniello a Torino, insieme ad altri funzionari, insieme ad altri dirigenti di società di intermediazione del settore farmaceutico, con l'accusa di corruzione. Un iter giudiziario lento e accidentato che trasferisce poi gli atti alla Procura di Roma. Alla fine del 2015 il Tribunale di Roma, senza arrivare neanche al giudizio di primo grado, emette sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Ma Milena Gabanelli e Giulio Valesini si chiedono: non c'era proprio nessun altro per un incarico? Era l'unico che sapeva le lingue? Questo è in qualche modo la risposta. È un dirigente che però ha una prescrizione in un caso di corruzione in un recente passato, e lo racconta il Corriere. Mentre il canone RAI, le cifre, quanto è stato raccolto dal canone RAI in bolletta non si sa, intanto perché è stato raccolto però al 70%, i primi 70 euro del canone abbassato a 100 euro. Secondo però il Fatto Quotidiano, il buco sul canone RAI è quasi ufficiale, finora incassato neppure un miliardo, la previsione finale dovrebbe essere di 1,8 miliardi, ma se hanno raccolto il 70%, già siamo a 1,3 miliardi, questo significa che all'appello mancherebbero almeno 300 milioni di incasso. Questi sono i calcoli che Carlo Di Foggia fa sul Fatto Quotidiano, a dire forse sul canone della RAI c'è qualche problema che arriverà. Ci sono altre notizie di cronaca. Intanto la notizia che a Roma sarebbe stato identificato dalla polizia colui, uno dei due che ha commesso la violenza sessuale nei confronti dell'australiana. Si tratta di un aggressore che sarebbe un aggressore seriale, è un quarantenne, è rumeno, frequenta il locale presso la stazione Termini dove la donna aveva trascorso la serata, sarebbe già stato identificato, si è alla caccia anche del complice. Identificato vuol dire che si sa che è lui, non vuol dire che è stato catturato dalla polizia. In questo momento non si sa dove sia. Però turista stuprata, l'aggressore ha un nome, questo è il titolo di pagina 19 del Messaggero, che faccio vedere anche sul mio profilo Facebook. Vi segnalo velocemente la storia dello Sparta Praga, squadra di calcio di Praga, dove due giocatori, dopo aver insultato un guardaline protestando, un guardaline donna, dicendo le donne sono buone solo a stare in cucina, racconta il giorno per queste frasi sessiste, sono stati messi in punizione dalla loro società, obbligati ad allenarsi con la squadra femminile di calcio. Hanno chiesto scusa, ma la squadra non fa sconti. Frasi sessiste, due calciatori in punizione, allenatevi con la squadra femminile, lo scrive il giorno. Segnalo anche che in Scozia hanno pagato un quadro 20 sterline e forse si sono ritrovati un Raffaello in casa dal valore inestimabile, questo lo scrive il Messaggero. Mentre siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, siamo sul giornale dove Oscar Grazioli ci racconta che c'è un elettricista ad Aleppo che salva esseri dalla guerra, salva i gatti, non gli esseri umani, i gatti, salva i gatti dalla guerra ad Aleppo. Ma chi se ne frega!